Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di una band italiana. Nasce nel 2002 dall'incontro di quattro amici al liceo Galileo Galilei di Legnano, Pedro, Ca, Dani e Ste. Si esibiscono nei locali della provincia, partecipano ai primi concorsi e nel 2004 autoproducono il loro primo videoclip per il brano Make Up Your Own Mind. Il brano arriva a Claudio Cecchetto, che decide di produrli. Li fa esibire in apertura dei concerti di Max Pezzali e realizza il loro primo singolo Tutto è possibile, versione italiana appunto di Make Up Your Own Mind, il cui video viene presentato nel novembre del 2005 sugli schermi di MTV Italia. Diventano un gruppo di riferimento per l'emittente, che affida loro la conduzione di alcune puntate delle sue trasmissioni principali. Il primo album, Tutto è possibile, esce nel 2006. Partecipano al Festival Bar, al Coca-Cola Live, all'Heineken Jamming Festival. Vincono il Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2006 di Copenaghen. Nel 2007 il secondo album, Adrenalina. Nel 2008, con Ricordi, partecipano al Festival di Sanremo. Il terzo album nel 2010, Fuori, seguito da Fuoco e Fiamme nel 2012. Scrivono pezzi per le colonne sonore di Rio e del progetto Lego Legends of China. Esordiscono alla radio e conducono trasmissioni TV come Calciomercato, l'originale di Sky Sport 1 e Goal Collection di TV8. Nel 2016 esce il singolo Il Mondo, reinterpretazione dell'omonimo brano di Jimmy Fontana, incisa a favore del progetto CESVI per la campagna Food Right Now. La nostra voce in scena di oggi sono Pedro e Ca dei Finley. Ladies and gentlemen, e qui negli studi di Radio 24 i grandissimi, straordinari, irrepressibili Finley. Lui è Pedro, quello scemo, ha fatto una presentazione come gli si confà. E quello? Lui invece è Ca, chitarrista della band, quello che fa finta di essere serio. Sì, okay, esatto. Ok, perfetto. Quello con lo sguardo languido, quello con la barba, quello che le conquista, dai, tutte. Dai, che tanto in radio non si vede, dai. Ragazzi, sono tanti anni che ci vediamo, perché i Finley sono nati nel 2006. Quindi non si direbbe, ma sono 10 anni che ci avete fra i piedi. Sì. Sono 10 anni che arrivò un signore che si chiama Claudio Cecchetto, che venne in radio con un disco e mi disse: senti questi che sono bravi. Ecco. Si chiamano come uno sportivo, era così? Sì, Michael Finley, che era un cestista dell'NBA. Esatto, e questi sono bravi e mi piacciono molto. Da lì è successo di tutto. È stato un grandissimo inizio. Beh, è anche una procedura che negli anni si è persa. Diciamo che la figura del talent scout è completamente sparita. Ci sono ancora, ma fanno un lavoro totalmente diverso di visione del web e hanno un prodotto praticamente già costruito e confezionato, perché puntano sul sicuro, vedono già se un cantante o comunque un artista che performa magari nella sua cameretta o in uno studio ha già un numero di views veramente importante, un bacino di utenza già sicuro per cui partire con un progetto discografico. Diciamo che quel fiuto da cane da tartufo non esiste più. Sì, o web o talent show. Invece voi siete arrivati appena prima, eh? Appena... È vero, appena prima l'esplosione dei talent. Più che altro penso forse la data X, che può essere considerata come la partenza dei talent, forse era la vittoria di Marco Carta a Sanremo, se non sbaglio. Sarà stato il 2009, una cosa del genere. Sanremo l'avete fatto? Sì, l'abbiamo fatto da giovanissimi, nel senso che eravamo tra i big, ma a 20 anni. Quindi... Sì, perché eravate piccini, 2008. 2008, sì. E l'abbiamo affrontata come dei ventenni, quindi con non la reale percezione dell'evento importante quale è, quindi spensierati, leggeri, ci siamo divertiti fin troppo. Sì, forse l'abbiamo presa anche un po' sotto gamba, fin troppo ingenui, mentre lì comunque ci avevi questi 8 milioni di ipotetici fantasmi che ti seguivano da casa. E anzi, forse lì c'è stata la presa di coscienza dei nostri genitori quando hanno detto: vi hanno visto lì, cavolo, forse lo fanno di lavoro. Forse lo fanno di lavoro dopo 2 o 3 anni che ci hanno preso in giro, lasciando università, esami in sospeso, quindi

questa volta non c'era solamente uno scopo discografico, c'era un qualcosa di più, portare alla sensibilizzazione di questa campagna e portare alle orecchie e al cuore di tutti anche questa bella causa di CESMI. Abbiamo fatto un video, tra l'altro girato a Londra con il bravissimo Gabriele Paoli, e vorrei parlare per la prima volta in un'intervista di questa cosa che è successa incredibile. Raccontaci. Perché diciamo che sono state delle giornate molto intense a livello di planning e tutto quanto, c'era sempre da sfidare comunque il clima londinese che è abbastanza ostile nonostante parliamo dei primi di giugno. È incredibile, ci è successa una cosa, perché tra i vari spostamenti cittadini durante le riprese abbiamo incrociato questo attore famosissimo inglese che si chiama Bill Nighy. Non so se lo pronuncio correttamente, vabbè, ha fatto tantissimi film, i primi che mi vengono in mente sono Marigold Hotel, cioè i due episodi Love Actually, in cui interpretava questo cantante bollito, la rockstar bollita, sì, famosissima, e l'abbiamo incrociato in metropolitana. Ha fatto un sacco di fotografie, l'abbiamo solamente salutato, non, è veramente famosissimo, forse l'attore più pagato in questo momento. Arriva al dunque. Regno Unito. Beh, mi piace raccontare. Degli attori, no? Vabbè, fatto sta, l'abbiamo solamente salutato e fatto sta che parlavamo col regista con cui stavamo viaggiando in metro in quel momento. Ragazzi, ma voi non vi siete neanche resi conto di questa coincidenza fantastica? Lui è stato protagonista di un film che si chiama, se non sbaglio, About Time, in cui lui interpreta il ruolo di questo padre, questa vita molto particolare, un rapporto molto difficile con il figlio. Fatto sta che il suo brano preferito in quel film era Il Mondo. E il figlio di Bill Nighy nel film, nel momento in cui aspetta la sua sposa all'altare, canta in maniera sguaiatissima Il Mondo di Jimmy Fontana. Quindi ci sembrava tutto così bello e così coinciso. Quando abbiamo scoperto questa cosa abbiamo detto: no ragazzi, cioè, doveva essere destino che comunque noi fossimo qui quest'oggi, cioè a girare le riprese di un brano italiano a Londra, e incrociamo uno dei più grandi attori inglesi degli ultimi anni che ha avuto comunque un rapporto particolare con questa canzone. Non avete osato dirglielo però? No, no, più che altro perché è stato veramente circondato da tantissime persone, perché parliamo, è un attore veramente famoso, e ci siamo solo fermati per un ciao, perché il suo tragitto dall'uscita della metropolitana a, diciamo, le strade di Londra è stato già veramente complicato. Voi siete cresciuti, è cresciuto anche il vostro pubblico. Intanto è cambiato negli anni il modo di interagire. A livello di social network c'era MySpace. C'era MySpace. E noi eravamo veramente dei titani su MySpace. Eravamo capi. I capi del mondo. Avevamo veramente un numero di follower e di amici su MySpace che era paragonabile a quello di realtà americane. Ma era anche figo MySpace, era divertente. Era molto figo. Poi, soprattutto, penso al nostro sito e forum ufficiale, c'erano i forum che andavano proprio tantissimo. Ed erano comunque un veicolo importante di amplificazione del messaggio. Però, se vogliamo, Facebook, che è il social network per eccellenza in questo momento, racchiude tutte queste cose in un unico, certo, contenitore, ovvero posso postare la mia intervista alla radio, posso postare un video di una canzone che adoro, posso postare le foto di me al mare, che però fanno più mi piace di un'intervista in radio, quindi tendenzialmente, o di un prodotto musicale. Tendenzialmente si va verso quella direzione lì, meglio le foto al mare. Anche per le conduttrici radiofoniche, ve lo assicuro. Quindi adesso metteremo più instagramizzati che... Sì. Metteremo, sì, tante foto al mare adesso che andremo in vacanza, probabilmente. Io non c'ho il fisico, Capper, per espormi così tanto. Pensate ancora che tutto sia possibile? Chiaramente, non smetteremo mai. Io stavo rispondendo con cazzo, però forse non era la... Sono stato più diplomatico. Però è molto chiaro. Grazie ragazzi. Grazie Marta. Grazie a voi. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Insieme a noi c'erano i Finley. Ancora un saluto da Marta Cagnola.